Quando la cugina Stickles bussò alla sua porta, Valancy ebbe la certezza che erano le 7:30 e che doveva alzarsi. Per quanto riuscisse a ricordare, la cugina Stickles aveva sempre bussato alla sua porta alle 7:30. La cugina Stickles e Mrs. Frederick Sterling erano in piedi dalle 7, ma a Valancy era consentito restare a letto un'altra mezz'ora per una tradizione di famiglia secondo la quale lei era delicata di salute. Valancy si alzò, sebbene avesse odiato farlo quella mattina più di qualunque altra cosa. Che cosa c'era lì di tanto interessante per alzarsi? Un'altra spaventosa giornata come tutte quelle che l'avevano preceduta, piena di piccole attività insulse, tristi e insignificanti che non andavano a beneficio di nessuna. Ma se non si fosse alzata subito, non sarebbe stata pronta per la colazione delle 8. Orari ferrei e fissi per i pasti erano una regola in casa di Mrs. Sterling. La colazione alle 8, il pranzo all'1, la cena alle 18, anno dopo anno. Nessun ritardo veniva tollerato. Così Valancy si alzò, tremante. La stanza era amaramente fredda a causa del brutale, penetrante gelo di un'umida mattinata di maggio. Sarebbe stata fredda per tutto il giorno. Una delle regole di Mrs. Frederick decretava l'inutilità del fuoco dopo il 24 di maggio. I pasti venivano cucinati sopra la piccola stufa a petrolio nel loggiato posteriore e, sebbene maggio potesse essere gelido e ottobre glaciale, nessun fuoco veniva acceso prima del 21 di ottobre, da calendario. Il 21 di ottobre Mrs. Frederick iniziava a cucinare sui fornelli della cucina e nel tardo pomeriggio accendeva un fuoco nella stufa della sala. I parenti mormoravano che durante il primo anno di vita di Valancy l'estinto Frederick Sterling avesse preso un malanno che lo aveva portato alla morte proprio perché Mrs. Frederick non aveva consentito ad accendere il fuoco il 20 di ottobre. Aveva provveduto il giorno successivo, un giorno di troppo per Frederick Sterling. Valancy si tolse la camicia da notte di ruvido cotone greggio con il collo alto e le maniche lunghe e strette e la pese in un armadio. Indossò della biancheria di fattura simile e un abito di percalle bruno, delle pesanti calze nere e degli scarponcini con il tacco di gomma. Negli ultimi anni aveva preso l'abitudine di sistemarsi i capelli con la tapparella della finestra vicino allo specchio tirata giù. A quel modo i lineamenti del suo volto non apparivano così chiaramente, ma questa mattina tirò completamente su la tapparella e osservò, nello specchio rovinato, con l'ardente determinazione di vedersi così come il mondo la vedeva. Il risultato fu alquanto spaventoso. Persino una bellezza sarebbe stata messa a dura prova da quella luce obliqua, dura e accecante. Valancy vide dei dritti capelli neri, corti e sottili, sempre opachi a dispetto dei 100 colpi di spazzola, non erano di più, ma neppure di meno, che vi passava ogni singola notte della sua vita. Inoltre li massaggiava assiduamente alle radici con Redferns e Vigor, ciò nonostante apparivano più opachi del solito nella loro asprezza del mattino. Poi vide delle graziose e dritte sopracciglia nere, un naso che le era sempre sembrato fin troppo piccolo, persino per il suo bianco e minuto volto triangolare, un'insignificante e pallida bocca che restava sempre un po' socchiusa sui piccoli e bianchi denti appuntiti. Un'esile figura dal seno piatto e di altezza sotto la media, in qualche modo era riuscita a evitare gli zigomi alti, prerogativa della famiglia, e i suoi occhi castano scuro, troppo tenui e sfumati per essere neri, avevano un'inclinazione quasi orientale. A eccezione degli occhi non era né bella né brutta, semplicemente insignificante, concluse lei con amarezza. Come erano evidenti le rughe attorno agli occhi e alla bocca sotto quella luce spietata, e mai il suo stretto e bianco volto era apparso tanto stretto e tanto bianco. Si acconciava i capelli alla pompadour, stile ormai da molto tempo fuori moda, ma che era in voga quando Valancy aveva alzato i capelli per la prima volta e la zia Wellington aveva deciso che avrebbe dovuto sempre portarli così. È l'unico modo che ti si addica. Hai il volto così piccolo che devi aggiungere un po' di altezza con un effetto alla pompadour. aveva detto la zia Wellington, la quale citava sempre dei luoghi comuni, quasi enunciasse profonde e importanti verità. Valancy aveva bramato ardentemente di far ricadere i capelli sulla fronte, rigonfiandoli un po' attorno alle orecchie, proprio come Olive. Ma la sentenza della zia Wellington aveva avuto un tale effetto su di lei che non aveva mai osato cambiare la propria acconciatura. Del resto, poi, c'erano così tante cose che Valancy non aveva mai avuto il coraggio di fare. Per tutta la vita era stata spaventata da qualcosa, pensò amaramente, fin dagli albori della coscienza, quando ricordava di essere stata terrorizzata dall'orso nero che, così le diceva la cugina Stickles, viveva nell'armadio sotto le scale. E sarà sempre così, lo so, non posso farci niente, non so come sia vivere senza avere paura di qualcosa. Paura del malumore materno, paura di offendere lo zio Benjamin, paura di diventare un bersaglio per il disprezzo della zia Wellington, paura dei mordaci commenti della zia Isabel, paura della disapprovazione dello zio James, paura di offendere le opinioni e i pregiudizi dell'intero clan, paura di non salvare le apparenze, paura di dire ciò che realmente pensava su qualsiasi cosa, paura della povertà quando sarebbe stata vecchia, paura, paura, paura. Non sarebbe mai riuscita a sfuggirle. La legava e la intrappolava come una ragnatela di acciaio. Soltanto nel suo castello blu riusciva a trovare un temporaneo sollievo. E questa mattina Valancy non riusciva a credere di avere un castello blu. Non sarebbe più stata in grado di trovarlo. 29 anni, nubile, indesiderata, che cosa aveva a che fare lei con la fiabesca castellana del castello blu? Avrebbe eliminato dalla sua vita quell'infantile assurdità una volta per tutte, avrebbe risolutamente affrontato la realtà. Si scostò dal proprio specchio ostile e guardò fuori. Lo squallore di quella vista la colpiva sempre come un pugno. La recinzione rovinata, il cadente vecchio negozio di carrozze lì di fianco, ricoperto di rozzi annunci pubblicitari dai colori violenti, la sporca stazione ferroviaria dall'altro lato, con gli orribili derelitti che vi ciondolavano attorno persino in un'ora così mattiniera. Sotto la pioggia battente tutto appariva peggiore del solito, soprattutto quel tremendo annuncio, mantenete quell'aspetto da scolaretta. Ah! Valancy aveva mantenuto quell'aspetto da scolaretta, era proprio quello il problema, non uno sprazzo di bellezza da qualche parte. Esattamente come la mia vita, pensò Valancy con spavento. La fugace amarezza si era ormai dileguata, accettò il dato di fatto con la stessa rassegnazione di sempre. Era una di quelle persone al margine della vita, niente poteva cambiare tutto ciò. Con questo stato d'animo, Valancy scese a colazione. 3. La colazione era sempre la stessa. Porridge di farina d'avena, che Valancy detestava, toast e tè, e un cucchiaio da tè colmo di marmellata di agrumi. Mrs. Frederick riteneva che 2 cucchiai fossero stravaganti, ma ciò non aveva importanza per Valancy, che odiava anche la marmellata di agrumi. La saletta fredda e cupa era più fredda e più cupa del solito. Fuori dalla finestra la pioggia scrosciava. Gli Sterling estinti nelle atroci cornici dorate più larghe del dipinto guardavano in cagnesco dalle pareti. Eppure la cugina Stickles augurò a Valancy molti giorni altrettanto felici. Siedi dritta, Doss, fu tutto ciò che la mamma ebbe da dirle. Valancy sedette dritta, chiacchierò con la madre e con la cugina Stickles delle cose di sempre. Non si chiedeva mai che cosa sarebbe accaduto se avessero parlato d'altro. Lo sapeva, pertanto non lo faceva mai. Mrs. Frederick era adirata con la provvidenza per aver mandato la pioggia quando lei voleva andare a un picnic. Fece pertanto colazione in un cupo silenzio, per il quale Valancy si sentì piuttosto grata. Ma Christine Stickles si lagnò. Come sempre, senza soste di qualsiasi cosa, il tempo, l'infiltrazione nella dispensa, il prezzo della farina, dell'avena, del burro. Valancy si rese subito conto di aver troppo imburrato il proprio toast. L'epidemia di parotite a Deerwood. Doss la prenderà di sicuro, preannunciò. Doss non deve andare dove è probabile che la prenda, disse concisamente Mrs. Frederick. Valancy non aveva mai avuto la parotite o la tosse cattiva o la varicella o il morbillo o qualsiasi cosa avrebbe dovuto avere. Niente tranne delle tremende costipazioni ogni inverno. Le costipazioni invernali di Doss erano una tradizione di famiglia. Niente, a quanto sembrava, poteva impedire che le prendesse. Mrs. Frederick e la cugina Stickles facevano eroicamente del loro meglio. Un inverno avevano tenuto Valancy chiusa in casa da novembre a maggio, nella calda sala. Non le avevano permesso neppure di andare in chiesa. E Valancy aveva preso un'infreddatura dopo l'altra, per poi finire con la bronchite nel mese di giugno. Nessuno nella mia famiglia è mai stato così, diceva Mrs. Frederick, implicando dovesse trattarsi di una tendenza degli Sterling. Gli Sterling si ammalano di rado, rispondeva la cugina Stickles. Lei era stata una Sterling. Penso, disse Miss Frederick, che se una persona si convince di non ammalarsi, in effetti non si ammalerà. Ah, era dunque questo il problema. Era tutta colpa di Valency. Ma in questa particolare mattinata, ciò che a Valency risultava un'offesa insopportabile era di sentirsi chiamare Doss. Lo aveva tollerato per 29 anni e tutto d'un tratto sentiva di non poterlo tollerare oltre. Il suo nome completo era Valency Jane. Valency Jane era terribile, ma Valency le piaceva con quel bizzarro sapore straniero. L'aveva sempre meravigliata che gli Sterling le avessero permesso di essere battezzata con quel nome. Le avevano detto che era il nonno materno, il vecchio Amos Wandsbarra, ad aver scelto per lei. Suo padre vi aveva aggiunto Jane giusto per civilizzarlo e tutto il parentado si era tolto dalle difficoltà soprannominandola Doss. Soltanto gli estranei la chiamavano Valency. Mamma, disse timidamente, ti dispiacerebbe chiamarmi Valency d'ora in avanti? Doss sembra così, così, non mi piace. Mrs. Frederick guardò stupefatta la figlia. Portava degli occhiali con le lenti enormemente spesse che conferivano ai suoi occhi un aspetto assai sgradevole. Qual è il problema con Doss? Sembra così infantile, balbettò Valency. Oh, Mrs. Frederick era stata una Wandsbarra e il sorriso degli Wandsbarra non era cosa di cui andar fieri. Capisco. Beh, allora ti si dovrebbe addire, in tutta coscienza sei abbastanza infantile, mia cara bambina. Ho 29 anni, disse la cara bambina con disperazione. Non lo sbandiererei ai 4:20 se fossi in te, cara, rispose Mrs. Frederick. 29. Io ero sposata da 9 anni quando ne compii 29. Io mi sono sposata a 17, disse con orgoglio la cugina Stickles. Valency le guardò furtivamente. Mrs. Frederick, a eccezione di quei terribili occhiali e del naso adunco, che la faceva somigliare a un pappagallo più di quanto non gli somigliasse un vero pappagallo, non era di brutto aspetto. A 20 anni poteva essere stata quasi graziosa. Ma la cugina Stickles. Eppure, un tempo, Christine Stickles era stata desiderabile agli occhi di qualche uomo. Valency sentiva che la cugina Stickles, con il suo volto largo, piatto e rugoso, con un neo proprio all'apice del naso tozzo, i peli irti sul mento, il collo giallo e avvizzito, i pallidi occhi prominenti e la sottile bocca raggrinzita, aveva comunque questo vantaggio su di lei, questo diritto di guardarla dall'alto in basso. Inoltre, la cugina Stickles era necessaria a Mrs. Frederick. Valency si chiese pietosamente come sarebbe stato essere desiderati da qualcuno, come ci si sarebbe sentiti ad avere qualcuno che avesse bisogno di noi. Non c'era nessuno che avesse bisogno di lei o che avrebbe sentito la propria vita incompleta se lei avesse improvvisamente lasciato questo mondo. Era una delusione per la madre, nessuno l'amava, non aveva mai avuto un'amica. Non ho neppure la predisposizione a fare amicizia, aveva una volta ammesso penosamente. Doss, non hai mangiato le tue croste, la rimbrottò Mrs. Frederick. Piove senza sosta per tutta la mattina. Valency rammendò una trapunta. Valency odiava rammendare le trapunte. Inoltre non era affatto necessario, la casa era piena di trapunte. C'erano tre grandi casse colme di trapunte al piano superiore. Mrs. Frederick aveva iniziato a metterle da parte quando Valency aveva 17 anni e continuava ad accumularle, sebbene non sembrasse probabile che Valency ne avrebbe mai avuto bisogno. Ma Valency doveva mettersi all'opera e doveva convincersi che la materia prima per il lavoro fosse troppo costosa. L'indolenza era un peccato capitale nella famiglia degli Stirling. Da bambina, Valancy ogni notte era stata costretta ad annotare su un piccolo e odioso taccuino nero tutti i minuti che aveva trascorso in ozio durante il giorno. La domenica la madre glieli faceva sommare e le diceva di pregare. In questa particolare mattinata di un giorno che sarebbe stato fatale, Valancy trascorse soltanto 10 minuti nell'indolenza. Perlomeno Mrs. Frederick e la cugina Stiglitz l'avrebbero definita tale. Andò nella propria stanza per prendere un ditale migliore e aprì a casaccio e di soppiatto il raccolto del cardo. «I boschi sono così umani», scriveva John Foster, «che per conoscerli si deve vivere in mezzo a loro». Avventurarvisi di tanto in tanto, mantenendosi sui sentieri più battuti, non ci consentirà mai di accedere alla loro intimità. Se vogliamo essere loro amici, dobbiamo cercarli e ingraziarceli con visite frequenti e riverenti a tutte le ore di mattina, di sera e di notte. E in tutte le stagioni, in primavera, in estate, in autunno e in inverno. Altrimenti non potremo mai, mai conoscerli veramente e nessuna nostra finzione nei loro riguardi potrà in alcun modo influenzarli. Hanno il loro peculiare modo di tenere a distanza gli estranei e di chiudere il loro cuore ai semplici visitatori casuali. Non è di alcuna utilità cercare i boschi per motivi che esulino dal puro amore nei loro confronti. Ci smaschereranno all'istante e ci precluderanno i dolci segreti dell'antico mondo. Ma se sapranno che veniamo a loro perché li amiamo, si mostreranno molto gentili e ci doneranno tali tesori di beltà e delizia che mai potrebbero essere comprati né venduti in alcuna piazza del mercato, poiché i boschi, quando donano, lo fanno con generosità e non chiedono niente in cambio a chi li venera con sincera devozione. Dobbiamo andare da loro con amore, umiltà, pazienza, attenzione e così apprenderemo quale commovente bellezza si nasconda nei luoghi selvaggi e negli spazi silenziosi che giacciono sotto il bagliore delle stelle e del tramonto. Quali cadenze di musica celestiale simili ad arpa scaturiscano dai rami dei vecchi pini e quali sommessi canti dai boschi cedui di abeti? Quali delicati profumi esalino dai muschi e dalle felci negli angoli assolati o dall'umida terra dei ruscelli? Quali sogni e miti e leggende di tempi più antichi li abitino? Inoltre il cuore immortale dei boschi batterà contro il nostro e la sua delicata vita si insinuerà nelle nostre vene e ci farà suoi per sempre, cosicché ovunque andiamo o per quanto ampiamente possiamo vagare, beh, torneremo sempre alla foresta per trovare la nostra più duratura affinità. Dos! Chiamò sua madre dalla sala da basso. Che cosa stai facendo da sola in quella stanza? Valancy gettò via il raccolto del cardo come fosse stato un carbone incandescente e si precipitò dai suoi rammendi. Ma avvertiva la strana euforia dello spirito che sempre la pervadeva per alcuni istanti, dopo essersi immersa in uno dei libri di John Foster. Valancy non sapeva granché dei boschi, fatta eccezione per i boschetti stregati di querce e di pini attorno al castello blu. In segreto li aveva però sempre bramati. E un libro di John Foster sulle foreste era la seconda miglior cosa dopo le foreste vere e proprie. A mezzogiorno la pioggia cessò, ma il sole non fece la sua comparsa prima delle 3. Allora Valancy disse timidamente che aveva intenzione di fare un salto in città. «E per quale motivo vuoi andare in città?» domandò sua madre. «Voglio prendere un libro in biblioteca. Ne hai preso uno soltanto la scorsa settimana?» No, 4 settimane fa. 4 settimane? Che sciocchezza! Ma è vero, mamma. Ti stai sbagliando. Non è possibile siano trascorse più di 2 settimane. Non mi piace essere contraddetta. E a ogni modo non capisco per quale motivo tu voglia prendere un libro. Perdi troppo tempo a leggere. Che valore ha il mio tempo? Chiese Valancy amaramente. Dos, non parlarmi con quel tono. Ci serve del tè? disse la cugina Stickles. Potrebbe andare a prendere quello se vuole fare una passeggiata, sebbene questo tempo umido sia tremendo per i malanni. Discussero l'argomento ancora per 10 minuti e alla fine Mrs. Frederick acconsentì, piuttosto a malincuore. 4. Hai messo le soprascarpe? Chiese la cugina Stickles non appena Valance uscì di casa. Christine Stickles non aveva dimenticato una singola volta di farle quella domanda quando Valance usciva fuori in una giornata umida. Sì, hai indossato la sottoveste di flanella? Chiese Mrs. Frederick. No. Doss, davvero non ti capisco. Vuoi morire di nuovo per il freddo? La sua voce implicava che Valance fosse già morta diverse volte a causa del freddo. Vai di sopra all'istante e mettila. Mamma. Non ho bisogno di una sottoveste di flanella, quella di satene è abbastanza calda. Doss, ricorda che 2 anni fa hai avuto la bronchite, va e fai come ti ho detto. Oh, Valance ubbidì, ma nessuno saprà mai quanto fu vicina a lanciare per strada il ficus prima di andarsene. Odiava quella sottoveste grigia più di qualsiasi altro indumento possedesse. Olive non doveva mai indossare la sottoveste di flanella. Olive indossava seta increspata e pura batista, nonché indumenti vaporosi con delle balze. Ma il padre di Olive aveva sposato il denaro e Olive non aveva mai avuto la bronchite. Ecco come stavano le cose. Sei sicura di non avere lasciato il sapone nell'acqua? Domandò Mrs. Frederick. Ma Valency se n'era andata. All'angolo si voltò e posò lo sguardo verso la brutta, cerimoniosa, rispettabile strada in cui viveva. La casa degli Sterling era tra tutte la più sgradevole. Somigliava a una scatola di mattoni rossi più che a qualsiasi altra cosa, troppo alta per la sua larghezza e resa ancora più alta da una cupola di vetro a forma di bulbo sulla sommità. Emanava tutt'attorno la desolata e sterile pace di una vecchia dimora la cui vita sia stata vissuta. C'era una casa molto graziosa con infissi di piombo e doppi abbaini proprio all'angolo. Una nuova casa, una di quelle che ami non appena le vedi. Clayton Markley l'aveva costruita per la sua sposa. A giugno doveva sposare Jenny Lloyd. La casetta, si diceva, era stata con prontezza ammobiliata per la signora, dall'attico allo scantinato. A Jenny non è l'uomo che invidio, pensò Valancy con sincerità. Clayton Markley non rientrava tra i suoi numerosi tipi ideali, però le invidio la casa. È una casa così giovane e bella. Oh, se soltanto potessi avere una casa tutta per me, anche se povera e minuscola, ma che fosse mia. Ah, comunque, aggiunse con amarezza, non serve a niente consumarsi per avere la luna, quando non si può possedere neppure una candela di sego. Nella terra dei sogni Valency si accontentava soltanto di un castello di pallido zaffiro. Nella vita reale sarebbe stata pienamente soddisfatta di una casetta tutta sua. Oggi invidiava Jenny Lloyd più intensamente del solito. Jenny non era molto più bella di lei e neppure molto più giovane, eppure avrebbe avuto questa deliziosa casa e le più graziose tazzine da tè Wedgwood. Valency le aveva viste. Un camino aperto e biancheria con monogramma, tovaglie con orlo a giorno e vetrinette per le porcellane, perché alcune ragazze potevano avere tutto e altre niente. Perché? Non era giusto. Valancy ribolliva di ribellione più del suo solito mentre proseguiva il cammino. Una rispettabile, dimessa e piccola figura nel suo impermeabile trasandato e con il cappello vecchio di 3 anni, infangata di tanto in tanto dai veicoli che con il loro oltraggioso trambusto percorrevano la strada. Le automobili costituivano ancora una novità a Deerwood, sebbene fossero numerose a Port Lawrence e le possedesse la gran parte dei residenti estivi su nel Muskoka. A Deerwood le avevano soltanto alcuni membri del bel mondo, poiché persino Deerwood era suddivisa in fasce sociali. C'era il bel mondo, il gruppo di intellettuali, il gruppo delle antiche famiglie, al quale appartenevano gli Sterling, la gente comune e alcuni reietti. Nessun membro del clan Sterling aveva ancora condisceso a possedere un'auto, sebbene Olive tormentasse il padre per averne una. Valency non vi era mai salita sopra, ma non era questo che bramava. A dire il vero, nutriva un certo spavento nei confronti delle auto, specialmente di notte. Le sembrava somigliassero troppo a delle grandi bestie che facevano le fusa e che potevano girarsi e investirti, oppure fare dei terribili ed efferati balzi da qualche parte. Sui sentieri della ripida montagna che circondava il Castello Blu, soltanto gioiosi destrieri con la gualdrappa potevano fieramente passeggiare. Nella vita reale, Valency sarebbe stata assai contenta di poter guidare un calesse dietro a un grazioso cavallo. Aveva ottenuto la licenza di guida per il calesse soltanto quando qualche zio o cugino si era ricordato di lanciarle un'opportunità, nello stesso modo in cui avrebbe gettato l'osso a un cane.